Italia in controluce. È il 16 di ottobre, questa Italia contro luce, in studio vi parla Daniele Biacchesi. Roberto Formigoni ormai travolto dalle inchieste e gli scandali che riguardano la sua persona. Vi ricordo l'iscrizione al registro degli indagati del 14 luglio 2012 che coinvolgono alcuni suoi amici e collaboratori come Pierangelo D'Accò, Antonio Simone, Umberto Maugeri, Costantino Passerino, che ipotizzano reati gravissimi anche per membri autorevoli della sua giunta, come l'assessore alla casa della regione Lombardia Domenico Zambretti, che è stato arrestato insieme ad una ventina di persone accusato di aver comprato i voti dall''ndrangheta per le sue elezioni nel 2010. E aggiungo anche un consiglio pieno di inquisiti sia di maggioranza che di opposizione. Ricordo solo il caso di Filippo Penati per quanto riguarda il Partito Democratico. Allora, voi che cosa ne pensate? In questa situazione ha fatto bene la Lega a chiudere la porta a Formigoni, e secondo voi bisogna andare a votare subito, come dice Formigoni, oppure ad aprile, come sostiene la Lega? I nostri messaggi 349-238-6666. Do subito la linea a Laura Bettini, che si trova nella sede della Regione Lombardia. Buongiorno Laura. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sentiamo allora insieme due passaggi di Roberto Formigoni, che ha parlato in aula proprio questa mattina. Non è pensabile una sospensione dell'attività del governo di Regione Lombardia per un tempo lungo. Da qui la mia chiarissima volontà di porre termine entro questa settimana alla vita del Consiglio regionale, affinché il prefetto possa stabilire già entro 45 giorni. L'ho detto e lo ripeto, che interrompere a questo punto la legislatura era ed è comunque un errore, ma poiché questa legislatura deve essere interrotta, meglio che l'interruzione sia rapidissima. Sarà comunque l'autorità competente a stabilire la data delle elezioni, che mi auguro il più ravvicinata possibile, e noi avremo compiuto fino in fondo il nostro dovere di permettere che il periodo di transizione sia brevissimo. Grazie. Allora, vi abbiamo chiesto se in questa situazione ha fatto bene la Lega a chiudere la porta a Formigoni. Cominciano ad arrivare i primi sms al 349-238-6666. Laura Bettini, dalla sede della Regione Lombardia. Giustamente, come ricordavi tu, la Lega appunto chiude da una parte, da un'altra però resta vicina a Formigoni, perché oggi ricordava Stefano Galli, che è il capogruppo della Lega qui in Consiglio regionale, che comunque darà il suo contributo a questa giunta tecnica a cui faceva riferimento Formigoni, da formarsi entro una settimana. C'è una distanza notevole, dato che abbiamo affrontato anche nel corso dei giornali radio, su quando si potrà andare a elezioni. La Lega insiste per Election Day ad aprile, per vari motivi economici mette avanti, ma sono anche motivi politici, mentre Formigoni vorrebbe tornare alle urne in tempi ancora più rapidi. Il PD ha una posizione, diciamo, mediana tra le due, e ci sono numerosi candidati. Daniele, forse poi affronterai anche il tema dei candidati. Io ti darei qualche spunto però che arriva proprio direttamente qui dal Consiglio regionale, e il primo è lo striscione arancione con la scritta bianca: tempo scaduto, Formigoni dimettiti. Questa mattina sono dovuti intervenire i commessi a rimuoverle, quindi il Consiglio è iniziato con un notevole, rispetto alla tabella di marcia, ritardo. I leghisti, che sono entrati in aula con la scritta, una maglietta con la scritta mafia, giù le mani dal nord. E poi un dato che si sta affrontando proprio adesso in una conferenza stampa con Antonio Di Pietro, che è quello che ha messo avanti il consigliere dell'Italia dei Valori Gabriele Sola, che si dimette oggi per non avere diritto dalla prossima settimana al vitalizio, che invece spetterà a tutti i consiglieri della regione, che resteranno appunto a occupare il loro seggio fino alla settimana prossima, perché il taglio al vitalizio non riguarda ovviamente il governo in corso, ma quello futuro, e quindi un altro dato interessante. A questa conferenza stampa appunto partecipa anche Antonio Di Pietro, che sottolinea con una certa malizia ovviamente il fatto che tanti consiglieri non si siano ancora dimessi, pur avendo dato mandato, diciamo, ai rispettivi capigruppo, aveva messo nelle mani dei loro capigruppo la lettera di dimissioni, che però non è stata mai formalizzata. E poi un'altra proposta che arriva da Di Pietro è quella di mettere i candidati in rete 30 giorni prima del deposito merito delle liste. Questo dice perché chi ha da dire qualcosa su di loro, chi sa qualcosa su di loro, lo possa comunicare al, in questo caso all'Italia dei Valori, in anticipo, diciamo una sorta di referendum, cioè ovviamente può trasformarsi in una gogna, in una berlina, però è sicuramente un modo per affrontare situazioni come quelle che sono poi dopo ben presenti nella regione Lombardia, nel Lazio, nel Molise, in queste ore e così via. Mi sembrano alcuni elementi che possano, diciamo, aiutare anche gli ascoltatori in questa discussione. Grazie mille per il tuo lavoro in diretta, Laura Bettini, dalla sede della Regione Lombardia. La sentiremo naturalmente perché sono giornate calde e era caldo anche ieri sera, anche se faceva freddo. Dal punto di vista della temperatura, in centinaia si sono ritrovati davanti alla nuova sede della Regione. Era l'opposizione, ma un'opposizione molto ampliata. Sentiamo Roberto Vecchioni al microfono di Raffaella Calanda. Milano deve essere un esempio. Lo è stato per decenni e decenni, lo deve continuare ad essere. E c'era anche l'assessore alla cultura del comune di Milano, Stefano Boeri. Far fare un passo in avanti a questa regione, alla Lombardia, abbiamo bisogno di un cambio di marcia politico prima di tutto. Allora, sono arrivati moltissimi sms, la Lega è stata anche troppo tardiva, doveva farlo prima in tempi non sospetti, no, la giunta doveva arrivare fino in fondo, scrive Michele, con questo stop non conosceremo mai la verità e magari qualcuno voterà nuovamente Formigoni sempre più santo. Una vergogna, dice, la spina andava staccata già da tempo, ma assume ovunque vitalizi che rimarranno mentre il governo di Roma ha già tassato gli assegni di invalidità. La Lega parla, dice Nicola, e intanto alcuni inquisiti sono ancora lì con loro. Quando la smetterete di dare voce a questi mariuoli parassitici, scrive un ascoltatore. Un altro si domanda chissà come verrà gestito l'Expo dal Movimento 5 Stelle. Commissariare la regione, fare pulizia, votare ad aprile, un altro ascoltatore. Non bisognava proprio andare a votare, scrive Paolo da Trento, dobbiamo farli sentire inutili. Alessandra critica la Lega perché dice da che pulpito arriva la predica. Continuate, 349-238-6666, siamo collegati con Ilaria Ramoni, che è referente di Libera, che era presente ieri alla manifestazione dei cittadini che chiedevano dimissioni di Roberto Formigoni. Ecco, Ilaria Ramoni, naturalmente il punto centrale del lavoro di Libera è la lotta alla mafia. Sì, questo è quello che facciamo principalmente, quasi esclusivamente in tutta Italia, quindi non solo a Milano e Lombardia. Ed era anche il senso della presenza su quel palco anche di un rappresentante di Libera ieri sera. Quello che è successo in Regione Lombardia è troppo grave, ma è solo una delle tante cose troppo gravi che sono accadute in questa regione, in questa città negli ultimi anni. E quindi era molto più che un atto dovuto, era imprescindibile non dire alcune cose. Cosa dovrebbe fare secondo te la politica a questo punto? C'è una questione di rappresentanza anche della politica, di scelta dei candidati. Voi avete fatto anche una battaglia su questo. Sì, infatti l'occasione di quello che sta accadendo anche in queste ore, anche negli ultimi minuti in Regione Lombardia, deve essere un'occasione per una riflessione a livello nazionale, non solo a livello regionale. Deve essere anche un'occasione perché per l'ennesima volta siamo davanti a una situazione per cui è la magistratura che di fatto sceglie, volente o nolente, io credo più nolente che volente, i destini politici dal punto di vista partitico di questo paese, perché evidentemente gran parte dei partiti o di chi rappresenta i partiti a seconda dei momenti storici è incapace di fare pulizia al proprio interno. Grazie Ilaria Ramoni, referente di Libera. C'è un ascoltatore molto simpatico chiamato Marcello di Saronno, che probabilmente non legge i giornali, e dice che Formigoni non è indagato personalmente. È stato indagato alle ore 17.02 del 14 luglio del 2012. Converrebbe per Marcello bello e per molti altri leggere i giornali, leggere le informazioni. Naturalmente noi cerchiamo di fare l'informazione, cioè dare voce, come abbiamo fatto sia a Roberto Formigoni che agli oppositori, ma cercare di capire anche e raccontarvi quali sono i fatti, perché secondo noi questo è il giornalismo, almeno qui a Italia in Controluce. Domani alla stessa ora per un nuovo approfondimento su Radio 24.